e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ci siamo, Deborah, possiamo iniziare il conto alla rovescia. Domani si chiude e verrebbe da dire finalmente, perché questo è stato un anno difficilissimo e non si smentisce sino alla fine, perché dopo la tempesta di Natale arriva anche una pioggia di rincari. Eh sì, pronti via. I primi a partire potrebbero essere, ma qui il condizionale d'obbligo, quelli delle Poste italiane, dopo che il governo le ha autorizzate ad aumentare le tariffe per spedire lettere raccomandate. Ma qui c'è ancora l'incognita, perché le Poste dicono: noi non procederemo, per fortuna, con questi aumenti, ma chissà. Speriamo. Sono previsti anche aumenti per il caffè, per le bibite vendute nelle macchinette, quindi nei distributori automatici, merendine, cracker e quant'altro. Ma anche per chi viaggia arrivano brutte notizie, perché intanto i carburanti in questi giorni di festa, come sempre, sono tornati ad aumentare, ma sono previsti soprattutto molti rincari per quello che riguarda i pedaggi autostradali. Insomma, tempi duri per chi ha deciso di muoversi per andare magari a trovare parenti o amici, o per regalarsi una breve gita e festeggiare il nuovo anno, ma non solo, anche per chi si muove non per piacere ma per dovere. Allora, cara Nicoletta, siamo proprio presi di mira, tartassati, secondo quanto ha stimato un'associazione dei consumatori, ma noi oggi ne sentiremo anche un'altra nel corso del nostro programma, il Codacons, fra il 2012 e il 2013 le tariffe locali e nazionali hanno già registrato incrementi più alti della media europea, con i trasporti cresciuti del 5,3%, sono cresciuti anche i prezzi dei taxi, più 5,2%, e i pedaggi autostradali, appunto. Allora, cara Deborina, non ci resta che invitare i nostri amici che ci seguono da casa a raccontarci come pensano di affrontare questa nuova ondata di rincari. Scriveranno meno lettere, berranno meno caffè, si porteranno la bottiglietta da casa per evitare di spendere soldi alla macchinetta, limiteranno gli spostamenti a quelli strettamente necessari. I nostri esperti, come sempre, sono qui pronti a darci una mano, ma io avrei già una propostina. C'è una cosa che non costa nulla, che non subisce rincari, perfetta per cuore denari, adatta a tutte le stagioni. Camminare, giusto? Brava. È così? Che se vogliamo, oltre ai benefici che racconteremo insieme ai nostri esperti, anche un significato che in questi tempi può aiutarci a prendere la vita. Sì, io direi restiamo in piedi, guardiamo avanti e passo dopo passo camminiamo verso il futuro, sperando che sia più roseo del presente. Zero rischi, solo vantaggi e tutto gratis. È gratis anche chiamarci e scriverci, intanto possiamo partire. Bella! Salva Danaio. E la benzina ogni giorno costa sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Valutation, valutation. E non potevamo che ripescare il nostro Rafael Gualazzi, che è stato ospite di Cuore e Denari, con questa sua versione di Svalutation di Adriano Celentano. Allora, da una parte, tu, Nicoletta, avrai seguito in questi giorni, anche se io non ci sono stata, a stuzzicarti per i telegiornali, certo. Giornali, il premier Enrico Letta ha detto che le tasse sono scese l'anno scorso e che nel 2014 continueranno a scendere. Peccato che in pochi ce ne siamo accorti. Sappiamo perché. Perché dico questo? Perché sappiamo che nel 2014, a giudicare già da quello che abbiamo letto dai giornali, ci sarà appunto un'altra serie di rincari che rischiano appunto di disturbare un po' tutti i contribuenti. Avremo un'agenda piena di impegni finanziari. Certo, una tempestina di rincari, ecco, come certo. Ci fa notare subito un nostro ascoltatore. Ah, sì, al 349-238-6666. Allora, facciamo un punto della situazione complessiva con Giovanni Parente del Sole 24 Ore, che saluto. Giovanni, buongiorno, buon anno, buone feste, quante altre cose devo dirti? Ci senti? Va bene così, grazie, buongiorno. Oh, ciao. Ciao Giovanni. E allora, facciamo subito anche la domanda intanto ai nostri ascoltatori. Io, tanto che abbiamo catturato Giovanni, che resterà con noi per tutta la durata di Cuore Denari, quindi fino alle 12.30, invito gli ascoltatori a chiamarci, a prendere contatto con noi. I rincari che ci sono partiranno proprio dal 1 gennaio, come pensate di farvi fronte, qual è il rincaro che temete di più, quello che pensate possa pesare di più sulle vostre tasche. 800 24 00 24. Giovanni, cosa scatta subito dal 1 gennaio, da dopodomani? Allora, come dicevate voi, dobbiamo attenderci degli aumenti ai caselli autostradali, perché come stimato anche sulle 24 ore ci saranno degli aumenti medi del 4%, ma con picchi molto più alti in alcune tratte autostradali. Insomma, sappiamo che la richiesta di aumento del pedaggio per quanto riguarda le autostrade, ad esempio valdostane, è del 14,5%, e anche per questo, insomma, ci sarà un tentativo di calmierare gli aumenti con una proposta che è stata valutata dal ministro delle infrastrutture lupi, proprio per tenerle gli aumenti entro il 5%. Ma non ci sono solo gli aumenti sui pedaggi autostradali, abbiamo anche degli aumenti leggeri dello 0,7%, ma comunque si sentiranno sulla bolletta elettrica. Abbiamo degli altri aumenti che riguarderanno, come dicevate voi all'inizio, il break in pausa caffè o in pausa merenda, per effetto della variazione dell'aliquota IVA sulle bevande e gli snack distribuiti da distributori automatici, che era stato previsto, ricordiamocelo, la scorsa estate da un decreto del decreto 63/2013 e che entra in vigore il 1 gennaio 2014. Va segnalato che all'aumento dell'IVA la legge di stabilità ha consentito anche un adeguamento dei prezzi dei prodotti erogati per quanto riguarda i contratti che erano stati stipulati prima della data di conversione, appunto, del decreto della scorsa estate. Sempre come dicevate voi, c'è la possibilità di un aumento delle affrancature. Per ora le Poste hanno fatto sapere che non la sfrutteranno. Comunque l'autorità di garanzia sulle comunicazioni ha dato di fatto il via libera per poter in qualche modo fare delle manovre. Quindi è una facoltà che le Poste si riservano o meno di esercitare. Tra l'altro sempre meno persone scrivono, magari a questo tema dedicheremo prima o poi una trasmissione. Infatti mi piacerebbe molto dedicare un tema alla scrittura. Esatto, a quanto si scrive o se, come dire, la scrittura fisica è stata ormai totalmente nelle vostre abitudini sostituita dalla scrittura, come dire, virtuale, l'utilizzo delle mail. E invece, se parliamo oggi di questo problema, perché evidentemente lo fanno soprattutto molte aziende, ancora utilizzano molto la posta cartacea, la lettera tradizionale e soprattutto le raccomandate. Detto questo, scriviamoci però anche delle lettere d'amore, degli auguri. Beh, gli auguri di Natale ce ne sono arrivati tanti, sì. Quindi ancora sì. Cioè, ma io dico proprio la lettera che scrivi alla persona che ami, al tuo amico, metti lì, prendi un foglio, scrivi, no? È molto più carino. Ma tu hai fatto caso quanto sia peggiorata la nostra calligrafia? Io quando firmo vedo solo delle zampe di gallina, ho una firma orribile perché non sono più abituata a farla. E di questo parleremo in una prossima puntata, volentieri. Come è cambiata la nostra grafia, adesso che la utilizziamo sempre meno, la biro e la penna, ma scriviamo mail in continuazione, e avremo anche una lettura di un neurologo che ci aiuterà magari a decifrarla. Allora, detto questo, ritorniamo invece ai nostri rincari di gennaio, come li ha chiamati il Sole 24 Ore negli ultimi giorni, ma non solo. Le notizie più negative, come avete sentito, sono quelle per chi viaggia molto. E se gli oneri del viaggio sono significativi, magari ad un viaggio di piacere si può rinunciare, sicuramente chi viaggia per lavoro fa più difficoltà. Salutiamo Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, che torna con noi. Presidente, buongiorno e buone feste. Eccoci, buongiorno. Allora, so che voi come Assoutenti avete già quantificato quanto inciderà sulle tasche dei consumatori questa raffica di aumenti. Poi con lei ci focalizzeremo sul tema dei trasporti, ma complessivamente, insomma, quanto dovranno sborsare in più le famiglie italiane nel 2014? Noi abbiamo costruito una forbice tra un single e una famiglia di 4 persone e attualmente siamo intorno ai 1.000 euro per il single e ai 1.800 euro per la famiglia con 4 persone. E questo è evidentemente un problema, anche nel misurare che questo aumento è quasi dovuto per la metà a un trascinamento delle tasse, e quindi l'aggiornamento dell'IVA piuttosto che la TARES e le altre imposte che stanno piovendo sulla spesa delle famiglie. Un'attenzione particolare l'abbiamo data alla spesa per i trasporti, quindi in quasi tutte le città stiamo assistendo a rincari dei costi dei servizi di trasporto pubblico, e questa spesa inciderà per un 4%, che è una cifra sulla spesa molto importante. Certo. Ecco. 800 24 00 24, il numero verde che vi dà come sempre la facoltà di interagire con noi. Prima di andare a fare questo focus sull'aumento dei pedaggi autostradali, sentiamo... Io direi di andare a Verona, perché c'è Diego che ci aspetta. Buongiorno e tanti auguri, grazie per intervenire a Cuore Denari. Buongiorno anche a voi, tanti auguri anche a voi. Allora, mi pare di capire... Diego? Sì, io viaggio molto, volevo portare la mia testimonianza. Io lavoro per un birrificio bavarese, quindi sono sempre in autostrada tra Verona, il Brennero, Austria e Germania. E per quanto riguarda i costi, voi immaginate che l'autostrada da Verona al Brennero costa 15 euro, quindi per 2 ore di autostrada sono 15 euro. In Austria, con 8 euro, si può girare per tutta la rete autostradale austriaca per 10 giorni, in Germania è gratuita. Quindi se noi facciamo una proporzione di costi c'è un'immensità, ecco, di differenza. E non vogliamo fare neanche nessun commento magari sulla qualità della rete autostradale da una parte e dall'altra, Diego, perché se aprissimo questa parentesi sono dolori. Sì, però voi immaginate, cioè, che per 2 ore a me costa 15 euro quando in Germania addirittura è gratuita, ma io non vorrei neanche che fosse gratuita, ma almeno una via di mezzo fra questi stati. In Austria con 8 euro che posso girare 10 giorni, quindi c'è una differenza che è incredibile. Ma quello che volevo sottolineare è che addirittura poi, come dice anche lei, si fanno poi ancora le code ai caselli come il pedaggio nel 1400. Lì magari, Diego, c'è un altro problemino, che è quello legato al fatto che gli italiani non vogliono pagare con la, come dire, con la moneta elettronica. Intanto in Italia si preferisce pagare in contanti, quindi le code sono lunghe anche per quel problema là. E poi magari pochi caselli. Certo, comunque voi moltiplicate poi un agente di commercio in un anno che gira per tutte le autostrade d'Italia oppure anche per altri lavori, cioè già questa somma è una cifra pazzesca che influisce su un bilancio. Certo. Di una meno male, persona. Diego, che ci siamo noi che le teniamo compagnia. Esatto. Sì, ma il problema è che qualche volta vado di là dal Brenner e resto di là poi. Ormai penso, ma Diego fa anche una bella attività, rappresentante di un birrificio. Grazie, Diego, agente di commercio. Buone feste. Truzzi, vengo subito a lei. Insomma, il problema sollevato dal nostro ascoltatore di Verona, credo che lo conosciate molto bene, questa differenza enorme di prezzo appunto per quello che riguarda i pedaggi nella stessa. Hai voglia a fare l'Unione Europea, l'Unione Bancaria e quant'altro quando ci sono delle differenze così clamorose, come dire, anche nelle questioni, non dico banali, ma di ordinaria amministrazione, perché le strade quantomeno. Truzzi, no, assolutamente, siamo al di fuori di ogni metro europeo, ecco, questa volta veramente viene voglia di andare in Europa. E non invece abbandonarla come può capitare su altri temi. Questo delle autostrade è veramente la cartina di tornasole di un sistema della mobilità, in questo caso quella privata, è ovvio, ma che non funziona minimamente, perché questi rincari sono in realtà autorizzati dal governo, ma non si capisce sulla base di quali parametri. Ormai siamo sfuggiti, non riusciamo, noi abbiamo protestato e continuiamo a farlo. E chiediamo l'assoluta revisione dei meccanismi che governano. Il problema è, Presidente, che come raccontava il Sole 24 Ore in questi giorni, sono le concessionarie che chiedono appunto questi incrementi tariffari, e quest'anno hanno giustificato questa richiesta dal fatto che praticamente il traffico autostradale è notevolmente sceso e quindi gli introiti sono stati ma le sembra una giustificazione? Nicoletta, tu che dici? Purtroppo mi era ben noto questa perché sono un lettore attento del Sole e quindi bravo, già qua mi piace. Sono assolutamente informato dei fatti. Sì. Il fattaccio del fatto è che questa scusa mi si permetta puerile, ecco, perché dovrebbe far parte dei cosiddetti rischi di impresa, visto che le autostrade sono date in concessione, non può essere a giustificazione del sostegno dei costi, perché quando uno assume una concessione si assume i cosiddetti oneri ed onori. Qui invece mi sembra che ci sono tanti onori e pochi oneri, perché ogni anno ce n'è una. Quest'anno era quella della riduzione del traffico, l'altro anno era quella delle manutenzioni straordinarie, l'altro anno chissà era cosa sarà il prossimo anno. Si apre il toto, il toto scusa per l'anno prossimo. Poi Truzzi parleremo anche del fatto che comunque questi aumenti previsti dal 1 gennaio avranno un tetto, lo ha promesso il ministro dei trasporti Lupi. Andiamo a prenderci un caffè, Nicoletta, oppure troppo presto? No, non è mai presto per me per il caffè. Tra l'altro noi abbiamo proprio dedicato una puntata a questa bevanda per sottolinearne tutti i vantaggi per la nostra salute e per così mettere in discussione qualche luogo comune. Ma adesso sono previste degli aumenti, il caffè possiamo portarcelo anche da casa in un termos se non vogliamo andare alla macchinetta. Insomma, non rinunciamo, ma soprattutto non rinunciamo, cara Deborina, alla pausa caffè, perché fa bene, aiuta a ridurre lo stress che è proprio associato al lavoro, anche le ricerche lo dimostrano, una ricercatrice dell'Università di Copenaghen. Insomma, unirsi con i colleghi per fare due chiacchiere non è un danno sicuramente per l'azienda, per la produttività, anzi si intrecciano dei legami sociali, si vince l'ansia, si acquisisce quindi un pensiero positivo che è assolutamente utile di questi, in questi momenti, è il carburante che ci serve, di quindi cui tutti abbiamo bisogno. È definitivamente tramontata l'immagine di questo caffè che fa, come dire, innervosire, che rende un po' tutti suscettibili, irritabili. No, non è più così. Non è più così, noi l'abbiamo, ne abbiamo parlato, ma soprattutto serve anche quella famosa macchinetta. Adesso ci sono i rincari alla macchinetta, esatto. Ritroviamoci alla macchinetta, non per ore, ma per qualche minuto, per ricaricarci. Magari andiamo con un collega di lavoro che ci ha particolarmente simpatico, con cui scambiare due parole, quindi senti, togliamoci le cuffie e andiamo. No dai, aspettiamo ancora tre minuti perché abbiamo la nostra prossima pausa, poi ci sono i mercati e magari durante la pubblicità al volo ci andiamo a fare una piccola pausina caffè. Una pausa ricaricante. Magari ci portiamo anche il nostro prossimo ospite. Sì, volentieri. Eh? Sicuramente lui verrebbe volentieri, peccato che non è qui, io so che gli abbiamo rubato un pezzettino di vacanza, gli abbiamo rubato una sciata, ma è ben contento, immagino, di stare con noi, almeno così deve dire. Buongiorno al dottor Massimo Gualerzi. Buongiorno a tutti voi, sono felicissimo. Con un naso da Pinocchio che arriva fin qua. No, veramente. Se non sono felice essere dove sono malato, quindi no, sono felice. Al cardiologo della Fondazione Dognocchi di Parma, all'Università di Parma, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica. Noi abbiamo detto che l'anno inizia in salita, dottor Gualerzi, allora vogliamo farci le gambe, come camminando. Che tra l'altro l'abbiamo ripetuto tante volte, è un'attività alla portata di tutti, non costa nulla, non richiede requisiti particolari, non ha stagione, è adatta per i solitari, è indicata per chi ama stare in compagnia, è rilassante, ricaricante e non si pagano i pedaggi, esatto. Dottor Gualerzi, io che sono una donna di cuore devo pensare, no, a questo, ai benefici per la nostra salute. Assolutamente sì, ma camminare, l'abbiamo sempre detto, aiuta il cuore, aiuta la pressione, chi cammina abitualmente ha la pressione ai battiti più bassi, ha il metabolismo più attivo, brucia più gli zuccheri, brucia più i trigliceridi e, come avete detto, costa così tanto poco che quindi vale la pena farli in ogni stagione, anche in queste di crisi, insomma, dove non siamo tassati per camminare almeno. Infatti l'idea che l'anno nuovo inizi con lo stato che batte cassa ci mette sicuramente di malumore, naturale, ma io direi che noi possiamo provare in questi giorni, la fine dell'anno è sempre dedicata un po' al bilancio, ecco, in questi giorni proviamo a ricordare anche le cose che abbiamo fatto, le cose belle in questo anno che è passato, e proviamo a pensare anche alle difficoltà che siamo riusciti a superare nonostante tutto. Dottor Gualerzi, lei che è cardiologo me lo può confermare, perché questo è un esercizio che aiuta il cuore e io, come donna di cuore, al cuore ci penso. Certo, è diventato ufficiale ormai, il riso e il buon umore non fa solo buon sangue, ma fa bene anche alla salute e al cuore in particolare, quindi essere felici, il pensiero positivo ci aiutano in ogni momento a uscire innanzitutto dai momenti di difficoltà, ma soprattutto a migliorare la nostra salute. Pensare che il sorriso, ormai esistono proprio delle tecniche, delle strategie per ridere più volte di cuore al giorno, perché fortifica il sistema immunitario e quindi ci difende contro tutto, contro le infezioni, le infiammazioni e contro le malattie. Anche ridere contro voglia funziona, ecco, e magari in questo, proprio in questi giorni non abbiamo tanta voglia di ridere, ma io ho trovato un proverbio che fa il caso nostro e che sposa i temi che trattiamo oggi in trasmissione. Dimmi sicuro è nel cammino chi in borsa non ha quattrino. Quindi questo è assolutamente un'attività. Scoppierà anche di salute, però magari avrà qualche altro problemino, magari, ecco, bisognerebbe trovare il giusto equilibrio per tutte le cose. Vogliamo leggere qualche messaggio? Sì, andiamo. Allora, dunque, se qui ritorniamo un po' al tema che abbiamo solo velocemente toccato poco fa, perché, mi chiede un ascoltatore, con la moneta elettronica si paga meno, intendeva il pedaggio autostradale. No, il pedaggio è lo stesso, si perde meno tempo e quindi c'è un vantaggio di altro tipo, almeno secondo me, ma in realtà come meno la pensano affatto molti italiani. La cosa più grave, parlando appunto dei motivi per cui sono stati varati questi pedaggi autostradali in aumento, a partire dal 1 gennaio, ci scrive un ascoltatore, non è la scusa puerile per cui le concessionarie hanno fatto appunto questa richiesta, ma è il fatto che il governo ha accolto questa richiesta, e questo è un altro tema. Insomma, si batte cassa e si recupera dove si può in questo momento. E poi c'è Marco, un ascoltatore di Alessandria, che è un nostro fedele ascoltatore, che ci fa tanti auguri di Natale, ma questo è un altro tema. Mentre un altro ascoltatore, a proposito di caffè, che sì, è quello che noi ci berremo nella pausa, subito dopo che tu avrai fatto i mercati, aggiungete in autostrada il caffè a 1 euro. No, tra l'altro chissà se aumenta anche quello, oltre ai pedaggi. Che dici, Giovanni? Giovanni Parente. Allora, il caffè che prendiamo all'autostrada non lo prendiamo alla macchinetta, per cui non avrebbe questa giustificazione il rincaro. No, diciamo non c'è nessun aumento di aliquota IVA, diciamo che un nuovo aumento di aliquota IVA che scatterà su quel tipo di erogazione da questo punto di vista. Quindi per quanto riguarda l'IVA al caffè o al bar o al ristorante, l'aumento è già scattato al 1 ottobre, perché insomma, sono servizi che in qualche modo vengono ricompresi nell'aliquota IVA al 22. Questo specifico aumento riguarda soltanto i distributori automatici, quindi insomma c'era un'aliquota differenziata, l'aliquota resta differenziata rispetto all'aliquota ordinaria, quindi passa dal 4 al 10%, ma era un aumento già previsto nella scorsa estate, quindi non dovrebbe essere ritoccato per quanto riguarda le imposte, il caffè che viene distribuito nei bar delle autostrade, di autogrill fondamentalmente, perché anche quello è un altro monopolio naturale. Allora io invito gli ascoltatori, qualora avessero notato proprio in questo frangente un aumentino, un ritocchino della tazzina del caffè all'autogrill piuttosto che ad un'altra stazione di servizio, raccontatecelo, perché è del tutto ingiustificato. 800 24 00 24, chiamateci anche se state viaggiando, raccontateci quanto state pagando e dove pensate di andare, di finire l'anno. Adesso è tempo di dare la parola a Debora, perché ci sono i mercati finanziari, a tra poco. Cuore e denari. Eccoci, siamo tornati insieme. Se lo Stato batte casse e mangia i nostri risparmi, noi investiamo in salute, scegliendo un'attività a costo zero. Insomma, ci attrezziamo per guadagnare benessere, un po' di serenità e farci passare anche un po' di malumore. Ci scrive un'ascoltatrice, Serena di Savona: i problemi sono tanti, ma a volte basta poco per ritagliarsi attimi di felicità. Ieri, dopo aver lavorato al mattino, una bella camminata veloce col fidanzato da Spotorno a Varigotti, con i colori che solo natura ci sa donare, ed è tutto gratis. Essere e benessere. E se l'hai vista camminare e con quel passo da verbale, e non c'è sguardo che leggeva. I nostri nonni, dottor Gualerzi, dicevano: chi va piano va sano e va lontano. Ma per chi vuole, oltre che andare lontano, mantenersi in salute e farsi passare un po' questa rabbia, quanti passi deve fare? Sembra un po' il gioco di... non so se lei lo faceva essendo un maschio. Regina, reginella, quanti passi deve fare? Sentivo le mie compagne che lo facevano. Ecco, quindi è preparato. Regina comanda con loro. Gli diavo anche perché non riusciamo mai a dirle. Ma in realtà sarebbe una bella domanda da fare ai nostri radioascoltatori. Quanti passi pensano sia giusto fare per mantenersi in salute? In realtà poi esiste anche una risposta un attimino più specifica. Diciamo che sono i classici 8 chilometri o comunque 10.000 passi al giorno, logicamente non da fare tutti insieme, ma che servono per dire che almeno siamo delle persone attive, perché almeno questo, anche se ci sembrano tantissimo dire in questo modo, ma in realtà sono il minimo indispensabile per ritenerci persone attive, e questo ci dovrebbe far pensare in realtà quanto poco facciamo. Però appunto sarei curioso di sapere i nostri radioascoltatori quanto ne fanno in realtà, o quanto pensano, o quanto camminano realmente in una giornata. A quanto corrispondono? 8.000 passi, dottore? No, 10.000 passi. 10.000 passi, 8 chilometri. Ah, però, e niente, bisogna prenderselo questo contapassi. Lo sto dicendo dall'inizio di Cuore e Denari, ma adesso mi devo attrezzare. Adesso glielo regalerò, intanto risparmierai un pochino anche tu, perché i nostri ascoltatori ci stanno raccontando dove il caffè costa di più e dove il caffè costa di meno. E dove l'aumento è già scattato in maniera del tutto ingiustificata, come ci scrive Marco: dalle mie belle Marche, Macerata ha pagato in questo momento un euro anziché i consueti 90 centesimi, il caffè in autogrill al nord è a 1,05 euro da un bel po', auguri a tutti in Ilva. E poi gli aumenti autostradali sono di 10 centesimi alla volta, in barba alla reale percentuale di aumento, ci scrive Mauri. Adesso tutto questo lo commenteremo tra i nostri ospiti. Insomma, ce lo fanno mandare proprio di traverso questo caffè di pausa. E noi allora lasciamo il caffè, che tra l'altro il dottor Gualerzi conferma che ci fa bene, vero dottor Gualerzi? Assolutamente, a parte quelli che soffrono di gastrite o che hanno dei problemi reali col caffè, non so, appena lo bevono si sentono subito agitati o tachicardici, a tutti gli altri il caffè fa bene. e anche se ne bevono 3-4 tazzine al giorno addirittura migliora i suoi effetti protettivi sul cuore, per la pressione, per il colesterolo e via dicendo. Caffè italiano, logicamente. Caffè italiano. Dottor Gualerzi, ma dato che lei ci vuole fare camminare, perché dobbiamo arrivare ai 10.000 passi al giorno, il caffè lo prendiamo prima o dopo la camminata? Ma guarda, se lo prendiamo prima serve anche per dare quel minimo di energia che ci manca ogni volta ci mettiamo in moto per camminare, quindi prenderlo prima aiuta appunto ad avere più voglia, a darci quel minimo di grinta per poi affrontare la camminata. Finita la camminata saremo comunque più attivati, anche se non lo prendiamo, però è meglio appunto prenderlo prima. Abbiamo proposto il tema della camminata da legare ai rincari che ci faranno iniziare un anno in salita, per cui passetto dopo passetto noi abbiamo pensato di parlare del cammino, perché è un'attività che non costa nulla, rende molto e alla lunga, cari amici, può anche farci risparmiare, perché il cammino è una straordinaria terapia preventiva. Quindi Deborah, un investimento a lungo termine. Bravissima, dovrei dire, vero? Vedi come ti sei subito collegata bene con i temi che affrontiamo dal punto di vista dei denari. E certo è che però gli ascoltatori continuano intanto a denunciarci. Abbiamo lanciato veramente questa mattina questa provocazione che hanno ben raccolto e qualcuno addirittura sta andando a fare una verifica personale. Dai, per vedere se rispetto a ieri il caffè è aumentato. Dai. Tra l'altro Furio Truzzi, volevo fare un'altra parentesi con lei, presidente di Assutenti. Adesso io con lei volevo soffermarmi sul tema dei trasporti, del costo del pedaggio autostradale, della qualità delle nostre autostrade, e qua invece vedo che gli ascoltatori si stanno un po' irritando sul tema del caffè. Ci scrive un ascoltatore: chiedete alla società Autogrill, devo dire il nome perché tanto tutti lo sappiamo che sono quasi loro esclusivamente sulla rete autostradale, perché a Napoli lo stesso caffè lo pago 90 centesimi, a Parma e a Mantova 1,05 euro, in autostrada stesso operatore. Per quale motivo? È perché a Napoli il caffè lo sanno fare. Quindi, no, magari... a parte le battute, che ci troviamo di fronte a una situazione di politiche di prezzo assolutamente incomprensibili, ma soprattutto ingiustificate, con tassi che qualche supermercato fuori via fa pagare di più, che ne so io, alla Spezia piuttosto che a Milano, ma francamente una concessionaria dovrebbe avere un prezzo bloccato, e questo è magari una lacuna della contrattualistica che viene posta in essere dalle concessionarie vigilate dallo Stato, e su questo mi spiace dirlo, ma ha completamente ragione quel radioascoltatore che vi ha mandato un messaggio, se ho capito bene, prendendosela un po' col governo per questi rincari. Perché vorrei ricordare che purtroppo, come dire, le autostrade sono puntuali in una cosa: a pagare i contributi elettorali che danno quando capitano queste scadenze. Ecco, sono i principali finanziatori privati, e quindi si capisce che c'è anche, per così dire, una benevolenza quantomeno e una disponibilità nel concedere gli aumenti dei prezzi. Quando l'anno scorso c'è stato un po' un passo indietro, si è gridato allo scandalo, un passo indietro nel senso di tenere un po' frenati questi prezzi. Poi anch'io ho visto l'ANSA poco fa che il ministro Lupi propone tendenzialmente un tetto del 5%, esatto. Ma come posso dire, qui il problema non è solo porre un tetto, è rivedere completamente gli atti di concessione alle società che eserciscono il traffico autostradale, che detengono appunto questo servizio, perché come tutti i servizi, per quanto debbano essere in equilibrio nei costi, non possono diventare uno scaricabarile sull'utente finale. Ecco, chi ci ripaga poi di tutte le code invece di tutti i disagi? Cioè c'è anche una simmetria contrattuale. Autostrade può fare la voce grossa perché poi in realtà è un network, è un cartello molto forte nei confronti del governo, e noi utenti e noi consumatori cosa possiamo dire quando subiamo questi pesanti disagi? Io ricordo che per il gelicidio insomma ci hanno liquidato con quattro baiocchi di 2 anni fa. Ecco, quindi c'è una simmetria forte che il governo deve tener conto tra i diritti degli utenti, di chi usa le autostrade e di chi le esercisce. Ci vuole un equilibrio diverso. Però Giovanni Parente, il governo fissa il tetto al 9%. Allora poi si manterrà. Io ho detto 5. E il Sole dice 5. Il 9, il Sole, esatto. Dice il 9 oggi. 5 o 9? Io ho letto 5. Allora Giovanni. Allora, dobbiamo specificare una cosa. Quelli di cui stiamo parlando sono i rincari proposti dalle singole società concessionarie. Quindi tra loro vogliono più 5. Esatto. Vogliono tra oggi e domani sapremo quale sarà la decisione del governo, perché a fronte, ad esempio, di una richiesta di aumento del 14,5% o del 12,9%, il governo deve esprimersi e dire concediamo l'intero aumento richiesto o ne concediamo soltanto una parte. Allora questo 9% da dove spunta? Perché se queste addirittura si vedono autorizzate ad un aumento ancora più sostanzioso di quello che hanno proposto loro, da dove esce questo 9% di lupi? Diciamo che quello è un tetto massimo, quindi insomma sì. È il tetto che il governo vorrebbe non far sforare a nessuno. Ho capito, ma se loro hanno proposto 5 e allora fallo di 5 sto tetto, giustamente. Esatto. Come dicevo, insomma, esatto, bisogna accordarci su queste percentuali. E io passerei Una camminata, che è meglio, facciamoci una camminata. E io, a proposito di percentuali, passerei di nuovo la parola al nostro dottor Gualersi, perché oggi vogliamo farci una camminata un po' per scaricare le tensioni e mantenerci in salute, ma noi sappiamo che moto, attività fisica e dieta riducono del 60% la possibilità di sviluppare il diabete di tipo 2. Quando parlavo del cammino come una straordinaria terapia preventiva, mi riferivo anche ai dati di numerose ricerche che sottolineano i vantaggi nel medio e nel lungo periodo di questa attività. Ecco, se moto e dieta riducono del 60% la possibilità di sviluppare il diabete di tipo 2, un trattamento farmacologico lo abbassa solo del 30%. Perché, dottor Gualersi, anche noi dobbiamo stare sui dati, perché non li vogliamo mica far dire solo a Giovanni Parente e al nostro presidente Truzzi, quindi giochiamo di percentuali anche noi, che sappiamo. Sì, appunto, abbiamo un 30% in più di possibilità di trattare le malattie metaboliche come il diabete attraverso lo stile di vita, ma sembra assurdo, ma le persone sembrano preferire di più le pillole. Vedi? E questo ha un senso da un certo punto di vista, perché in realtà diciamo che camminare un po' come quegli investimenti che facciamo a lungo termine, dove magari vengono proposte delle percentuali appunto di rendita molto alte, ma molto lontane nel tempo, e le persone spesso questa cosa non l'accettano, perché vogliono, quando fanno un investimento, vogliono risultati immediatamente. Ecco, in un certo senso la pillola ti consente di visualizzare subito l'obiettivo. In realtà però, ahimè, questo non è un obiettivo che si raggiunge così bene con la pillola, perché la vera terapia è lo stile di vita, che non solo funziona di più, ma insieme a trattare la patologia ci permette appunto di raggiungerlo senza effetti collaterali, mentre sappiamo benissimo che le terapie hanno un prezzo nascosto da pagare molto più alto, che sono appunto gli effetti collaterali. Quindi delle volte il risparmio ce l'abbiamo sotto il naso, no? Possiamo fare dei buoni investimenti, non li facciamo perché siamo troppo più smaniosi di vedere i risultati subito. E questo è un consiglio che do, forse anche economico, nel senso che delle volte i migliori investimenti sono quelli che necessitano di un pochino più di tempo e di pazienza. Hai visto, Deborah, i nostri esperti, il cardiologo si trasforma, si deborizza e diventa anche un po' denari. Bravo, insomma è un educatore a 360 gradi, giustamente, quindi lo chiameremo molto più spesso, dottor Gualersi. Le leggo, dottore, quello che ci scrive Carlo. Ditela tutta, anche a camminare si paga, ci sono percorsi a ticket e i parcheggi a pagamento che i comuni mettono all'inizio dei percorsi. Niente, dobbiamo tutti convertirci al contapassi, mi pare di capire. Sì, sicuramente, ma una strategia poi anche quella di andare magari in bicicletta al posto dove si inizia a camminare, e quindi si evita di pagare il pedaggio della macchina. Ma incredibile. Ci sono sempre vicino a casa comunque dei luoghi dove si può camminare senza dover fare dei chilometri e chilometri. Poi per carità, i comuni devono anche spendere un po' per tenere bene questi posti, però veramente se ne approfittano tutti. Ma costa come un caffè in realtà poi, il parcheggio. Esatto. A proposito, e allora sarà aumentato pure quello in questi giorni. Appunto, dottor Gualersi, io regalerò un contapassi a Deborah. Sì. Regalerò per il nuovo anno. Io invece ti ho portato i vinci sgrassi dalla mamma. Ecco, vediamo. Non mi sembra molto equo questo scambio stamattina. Io mangio i vinci sgrassi e lei va a camminare. Mi sembra così che come cuore e denari siamo a posto. Ma basta il contapassi o deve fare qualche calcolino in più? Tanto lei in matematica è afferrata per avere il ritmo giusto. E poi c'ho la gamba lunga, magari posso fare meno passi? Dipende, no, meno passi no. Con la gamba lunga in realtà si faranno più chilometri. Invece di farne 8 magari ne farà 11 di chilometri facendo 10.000 passi. In realtà dipende anche lì l'obiettivo che vogliamo ottenere, perché diciamo che questa camminata, questi famosi 10.000 passi, servono per tenerci in attività, e questo vale per tutti. Se poi vogliamo mettere un quid in più, non so, vogliamo perdere peso oppure abbassare le nostre pulsazioni a riposo, che non ci fa mai male, a riposo, allora dobbiamo aumentare Sì, non dica nulla, dottor Gualerzi, perché dovete chiamare il nostro numero verde, dire che cosa volete fare e noi vi facciamo raggiungere il vostro obiettivo come semplicemente, gratuitamente, camminando, e quindi risparmiamo i soldi, tanto poi comunque da qualche parte dobbiamo metterli. 800 24 00 24 a proposito di trasporti. Noi andiamo a sentire i suggerimenti per chi è in viaggio e magari qualcuno si è fermato in qualche stazione di servizio a prendere il caffè. Raccontateci che prezzo vi è stato proposto, che avete dovuto naturalmente pagare, e lasciamo anche Giovanni Parente, Furio Truzzi e il nostro dottor Gualerzi prendersi il loro caffè. Intanto noi ritorniamo tra pochissimo. Cuore e denari. E vado su, su, su, e vado giù. Ed eccoci ritrovati, raccontateci allora se avete fatto due conti e se il 2014 vi porterà qualche cambiamento nel vostro stile di vita, indotto anche dalle novità che scatteranno dal 1 gennaio. Sono delle brutte notizie per molti versi, pedaggi autostradali più alti, quindi viaggerete meno anche per questo motivo, distributori automatici più cari e quindi meno caffè, meno merendine, anche questo comunque non è detto che sia proprio una cattiva notizia, perché meno merendine ci fa bene. Ci sono un po' dei pasticcetti qualche volta lì dentro. 800 24 00 24 per condividere con noi il vostro pensiero su tutte queste novità. E chiamateci anche per raccontarci che cosa, quale obiettivo volete raggiungere. Volete dimagrire, volete avere meno battiti, volete tirare giù un pochino la pressione che ultimamente, magari anche complice un stile di vita un po' sregolato, tipico di questi giorni di festa, si è alzato un pochino, anche se i vostri ultimi esami hanno detto che il vostro colesterolo è un pochino più alto della media, forse il cammino potrebbe rimetterlo a posto, ma bisogna saper camminare con il ritmo giusto, individuare esattamente il passo che fa bene a noi. 800 24 00 24, abbiamo Beatrice che chiama da Verona. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Eccoci qua, da una città meravigliosissima. Buongiorno Beatrice. Buongiorno. Io volevo dire che oltre a camminare vado a ballare, perché il ballare veramente crea molta allegria. E non so, due ore di ballo veloce, molto veloce, quanti chilometri potranno essere? Ma veloce in che senso? Veloce. Che ballo veloce fa Beatrice? Nel senso che si fanno balli, la polka, la mazurka, anche il tango, il valzer, ecco, il valzer lento, il valzer viennese, e insomma due ore sono... impegnative, insomma, e soprattutto salutari, la fanno divertire, il che è la migliore. Brava Beatrice, si faccia un giro di pista anche per me. E intanto chiediamo al dottor Gualerzi, che non penso sia un ballerino. Per quale motivo? Perché devi avere questo pregiudizio nei confronti del nostro dottore. Perché secondo me il dottor Gualerzi è troppo alto per essere un ballerino, vero o no? Ma visto che sono un palo praticamente della luce, nel senso che sono, non mi so muovere, però devo dire che faccio ballare i miei pazienti, nel senso che ho proprio creato nel nostro centro dei corsi di ballo apposta, perché, come dice la signora, il ballo fa bene, più o meno due ore di ballo equivalgono circa 6.000 passi, quindi quasi il 70-80% di quello che dovremmo fare in tutta la giornata, e quindi un ottimo movimento, ma soprattutto fa bene al cuore, perché la musica, andare a tempo e soprattutto ballare insieme a un'altra persona creano quelle altre condizioni che abbiamo detto importanti per la salute, quell'empatia, quel rilassamento, quella condivisione, quella felicità che solo la musica e il movimento insieme riescono a darci. E quel famoso cuor contento il cielo aiuta, in più si muove. Ma dottor Gualerzi, vogliamo allora raccontare a Deborah, alle persone che ci stanno scrivendo, perché quelli alti non possono ballare, dimagrire? No, Deborah balla bene, ma il dottor Gualerzi, io l'ho visto e ho detto, lui non è un bravo ballerino. No. Non so, è un bravo medico, è un bravo ragazzo, è un bel ragazzo, un grande comunicatore, un ottimo comunicatore, ma il ballo no, no. Non è anche per Giovanni vita. Parente, secondo me. Giovanni, di la verità. No, sono un pessimo ballerino, veramente sono impedito. Però è un livello superiore del palo della luce in cui si rappresenta, come si definisce il dottor Guarini. Presidente Truzzi, ecco, ci salvi lei da questa deriva drammatica che ha preso il nostro programma. Lei li muove due passetti o anche lei? Dunque, io ballo, come ben intuite, nei prezzi meglio di qualsiasi altro ballo, ma tuttavia qualche volta mi scarico, è veramente una... una gioia poter, non sono un grande ballerino, ma con le musiche moderne, le polche, le mazurche della signora Beatrice sono sicuramente ottime, ma vi assicuro che anche scatenarsi con dei ritmi moderni, di passi se ne fanno, ecco, non so cosa ne pensa il dottore, ma hai sentito Truzzi che mi va anche in discoteca ogni tanto? Dottor... ogni tanto. Bravo, bravo, no, anche perché no, avete ragione, perché sennò qua un deserto, Gualerzi non balla, Giovanni Parente non è capace, e almeno Truzzi. Dottor Gualerzi, che dice, ci piace questo ballo, il ballo moderno? Come il si ballo dice? Moderno ti piace, basta non condirlo con le cose che normalmente si condiscono in discoteca, dove supera il codice, però si vanifica tutto l'effetto del ballo moderno, però assolutamente tutti i tipi di ballo vanno bene, in realtà non è solamente quello di coppia come ho detto prima, ma anche proprio quello più moderno. Intanto, senti, noi abbiamo solamente da chiedere al dottor Gualerzi, che poi andrà, ci lascia, perché posso dirlo? Perché sarebbe in vacanza il dottor Gualerzi, ci dà il ritmo, non per andare a ballare la polco, la mazurka o il valzer, ma per camminare? Sì, dunque la prima indicazione chiara, che deve essere chiara a tutti, è che questi famosi 10.000 passi rappresentano appunto, ribadisco, il minimo indispensabile per fare del movimento, no? E quando si mette un contapassi ci si rende conto che molto spesso chi non è proprio sedentario li fa. Ora il problema è come farli. Quando noi camminiamo mediamente troppo lentamente per avere degli effetti benefici sul metabolismo o sul cuore. Allora diciamo che dobbiamo prima di tutto andare più veloci o andare più in salita, quindi fare più fatica per avere un effetto vero e palpabile. Senza voler dare delle formule complicate che in passato abbiamo già dato, ma oggi siete in mezzo ai numeri, diciamo, più seriamente, quindi voglio dare un'indicazione un pochino più grossolana, ma diciamo che per bruciare i grassi indicativamente un uomo di mezza età, poi con minime sfumature, dovrebbe stare attorno ai 110, 115, 100, massimo 120 battiti. Quindi andare molto più velocemente rispetto alla classica passeggiata che si fa quando si fa shopping e far arrivare le proprie pulsazioni attorno ai 110 battiti. Questo rappresenta un'intensità che può essere utilizzata per bruciare i grassi, quindi per perdere peso. Se invece aumentiamo ancora di più il nostro passo o andiamo più in salita, addirittura arriviamo a fare questa marcia veloce e spingiamo i nostri battiti sopra i 130, ecco che lì andiamo ad agire più sul sistema cardiovascolare, quindi andiamo ad abbassare poi a riposo le pulsazioni e ad avere un effetto positivo, cioè di riduzione sulla pressione una volta che abbiamo finito l'esercizio. Quindi più intenso per agire sul cuore, un po' meno intenso, ma sempre più intenso rispetto alla camminata normale, per bruciare i grassi. Fantastico. E queste, diciamo, sono regole fondamentali se si vuole ottenere dei risultati, perché se non le si seguono, anche qui ahimè i risultati non ci sono e poi magari ci scoraggiamo e pensiamo che non sia vero camminare faccia bene, in realtà invece è solo perché lo facciamo fatto in modo, diciamo, sbagliato. Nadia dalla provincia di Pavia, 800 24 00 24, vediamo se cammina lenta, un pochino più veloce. Parleremo anche di Nordic Walking, la camminata con le bacchette, già che vogliamo iniziare l'anno con qualche novità, magari ci buttiamo sui bastoncini. E già un'ascoltatrice ce l'aveva anche segnalata, Anna da Pisa: con il Nordic Walking si cammina anche meglio, hai visto quanto sono avanti i nostri ascoltatori, avantissimi. Nadia, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo chiedere una cosa al dottor Gualerzi, si tratta di questo: io faccio parte di un gruppo di cammino per cui 3 volte a settimana andiamo a camminare, però adesso che fa freddo, che soffro abbastanza il freddo, volevo sapere se a fare lo step va bene lo stesso. Quella macchina da palestra che praticamente no, non è quella che fa, non è lo step che faccio io, ride Nicoletta, io faccio l'altro, quello un po' più da urto, infatti mi fa male pure una gamba. E dottor Gualerzi, probabilmente l'ascoltatrice si riferisce all'altra macchina che simula la camminata, no? Sì, sì, o l'ellittica, si chiama in termini ellittica, o step, o il tappeto, o la sica. Comunque questi esercizi aerobici da palestra o da casa, no, ormai sono anche domestici, diciamo che sono assolutamente consigliati, soprattutto perché ci permettono di farlo tutto l'anno. Adesso la radioascoltatrice ha detto che non lo fa perché c'è freddo, ma molto spesso, ad esempio dove abito io, anche quando nelle stagioni migliori piove e quindi le persone non escono. Quindi avere in alternativa uno strumento come questo da tenere in casa ci aiuta a non perdere il ritmo delle 3-4 volte a settimana. Assolutamente sì. Va bene, quindi no, promosso anche lo step. È promosso anche Carlo, che su Facebook ci scrive: domani completerò i 365 su 365. Evidentemente lui ha camminato almeno una volta al giorno per tutto l'anno, non si è mai concesso una pausa, arrivando a 4.219,5 chilometri corrispondenti a 100 maratone. Buon anno a tutti, ma anche a lei Carlo, che si è lanciato in questa impresa e l'ha vinta. Sì, direi di sì, dottor Gualerzi, possiamo lanciarla come un proposito per il nuovo anno. Dal primo anno iniziate a camminare e al 31 di dicembre del prossimo anno 4200 chilometri per tutti. A cuore denari daremo un premio a chi ha camminato di più. Dottor Gualerzi, io la lascio perché so che lei vuole lasciarci. Grazie. No, io sono sempre molto volentieri, anzi vi ringrazio veramente. Grazie, vi a lei. Gli auguri, che siete fantastiche. Grazie, grazie di cuore. Grazie, dottore. Buone feste anche a lei e buon grazie anno. Grazie a tutti, buon anno. Lanciamo l'ultimo ascoltatore per anche così riagganciarci al tema che trasversalmente abbiamo affrontato nel corso della trasmissione, prima di cimentarci in una passeggiata con la disciplina del Nordic Walking. Sergio D'Ancona, l'ultima arrabbiatura ce la fa prendere un conterraneo mio. Sergio, buongiorno. Buongiorno. Rapidissimo, grazie, che stiamo andando in chiusura della prima parte. Hai detto rapidissimo ed è caduto. Ma Sergio, noi lo recupereremo. Lo recupereremo tra poco perché ritorneremo. Vuoi non recuperare un ascoltatore di Ancona, Deborah? Ma stiamo scherzando, ma non lo dire neanche per scherzo. Ma intanto noi abbiamo i nostri due cavalieri. Io prendo Giovanni Parente. Guarda, allora commenta con lui questa cosa che mi ha scritto con la mail poco fa. Guarda nel mille proroghe che cosa c'è. Un'imposta questa? Sì. Allora, Giovanni, sei pronto? Sì. Che poi andiamo, poi andiamo a ballare io e te, perché non può essere che un ragazzo bello come lui rimane palo. Un'imposta da applicare fino a un massimo di 2,50 euro ai passeggeri che sbarcano sul territorio di un'isola minore utilizzando compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea o imbarcazioni che svolgono trasporto di persone a fini commerciali. Stiamo facendo la conoscenza con una bella tassa di sbarco. Esatto, è una bella microtassa, così è arrivata last minute nel decreto mille proroghe che è stato approvato venerdì. Adesso vediamo quando entrerà in vigore, perché pare che ci sarà uno sdoppiamento di questo provvedimento. Ed è una tassa di sbarco per chi va nelle piccole isole, nelle isole minori, e si pagherà fino a 2,50 euro, tipo nelle Eolie piuttosto che hai capito? Esatto, eccoti qua, 2,50 centesimi una in più. Bella tassa di sbarco, cara Nicoletta. E quindi se voglio andare a Lipari pago. Niente, paghi oppure stai a casa e fai Nordic Walking, che è lo stesso. Andiamo in pausa, tra poco. Cuore e denari. Ed eccoci di ritorno, step by step, passo dopo passo. Abbiamo chiuso anche questo 2013. Dal punto di vista economico ci sono state molte cose interessanti, qualcuna positiva, qualcuna negativa. Le borse, per esempio, sono sui massimi e brindano coloro che investono e hanno puntato su cavalli giusti e le borse giuste. Ma la famiglia media soffre di più, e dal primo gennaio dovrà affrontare e gestire altri rincari, trasporti, forse lettere raccomandate. Dopo diversi trimestri di ribassi torna ad aumentare la bolletta della luce. Il ritocco recente dell'IVA si farà sentire alla macchinetta del caffè, distributori automatici. Mamma mia, Nicoletta, ci impegneremo a partire dalle prossime puntate però anche a trovare notizie positive da raccontare ai nostri ascoltatori. Assolutamente, vogliamo tenere un po' in alto i cuori. Chissà se Giovanni Parente ha qualche notizia positiva già da raccontarci. È una specie di antipastino, Giovanni. Guarda, volevamo affrontare il tema della dichiarazione dei redditi e le detrazioni, ma anche qua non molto... Però cerchiamo di essere ottimisti, dai. Diciamo che il tempo c'è, il governo ha tempo fino al 31 gennaio per fare un'operazione di riordino che non comporti un taglio lineare, altrimenti dovremmo rassegnarci ad avere meno detrazioni per tante spese che sono molto popolari. Pensiamo soltanto alle spese mediche e per farmaci, che adesso hanno la detrazione del 19%. Se l'operazione di riordino non andasse in porto entro il 31 gennaio, allora ci sarebbe un taglio lineare. In parte lo sconteremo quest'anno, quindi praticamente la detrazione scenderebbe al 18%, In parte invece lo sentiremo nella prossima dichiarazione dei redditi del 2015 con un'aliquota addirittura ridotta. Ecco, però anche lì un po' discutibile come al solito, perché si fanno le cose con retroattività e qua sempre tutto in barba al, come dire, allo statuto del contribuente. E magari Giovanni in un altro momento faremo anche un commento su questo. Però io vorrei commentare con te, con i nostri amici, perché abbiamo lanciato un po' come domanda per i nostri ascoltatori quale rincaro vi pesa di più. E abbiamo visto che il rincaro che pesa di più per gli ascoltatori di oggi, del 30 dicembre del 2013, è quello legato al caffè. Sì. Il caffè accende, vuoi perché è cattivo quello che si beve in autostrada, come ci scrivono tantissimi ascoltatori, e poi c'è chi ci suggerisce di prenderlo in un bar piuttosto che in un altro, magari vicino alle stazioni dei metro, dove si arriva a pagare anche solo 70 centesimi contro l'euro abbondante che si paga in autostrada. 800 24 00 24, noi continuiamo a sorseggiare caffè con voi sperando che non sia amaro. Abbiamo Carlo della provincia di Milano e poi Massimiliano della provincia di Ancona. Carlo, buongiorno. Carlo. Buongiorno. Buongiorno Carlo. Allora, parlavate di caffè. Qualcuno si meravigliava che costava un euro. Io pochi mesi fa all'aeroporto di Monaco di Baviera l'ho pagato 3 euro. Già, l'aeroporto è un'altra, come dire, piedi, zona dove se ne approfitta. Certo. Ah, certo, in piedi oltretutto. E anche 2 mesi fa sempre 3 euro, quindi c'è un bel salto. Certo, no Carlo, ci sono delle, come dire, situazioni nelle quali, siccome se ne approfittano un po', no, perché alternative non ce ne sono, quando uno sta magari così in un aeroporto, deve aspettare un paio d'ore per prendere il suo volo, gli viene voglia del caffè, non c'è niente da fare, e lì deve prendere quello che c'è. Però anche lì qualche macchinetta, non mi ricordo se ci sono negli aeroporti. No. Carlo, almeno era buono? Esatto. Non penso. Era discreto, era fatto così con noncuranza. Saranno tanto bravini questi tedeschi, ma sul caffè, non ci vengono a dare lezioni. Guardi, ti credo proprio, ed è la seconda volta, il prezzo non cambia. Però Carlo, la terza volta non ci sarà. Prego? La terza volta non ci sarà. No. Ma io guardi, lo bevo perché devo sempre offrirlo a qualcuno. Pure, oltretutto. E allora sa... Va bene, Carlo, buone feste, buon anno nuovo. Comunque, guardi, se volete parlarmi per marce e maratone, avete il mio numero, io ne so parecchio. Perché? Perché lei è un maratoneta, Carlo? Sì, sì. Ma quante maratone ha fatto? Ne ho fatto una decina. 3 New York, 3 Venezia, 2 Milano, poi una Parigi, una Vienna... E insomma, l'ascoltatore di oggi di Cuore Denari. È l'ascoltatore di Cuore Denari ed è praticamente un collega anche del nostro Giuseppe Cruciani, grande maratoneta. Esatto. Sì, sì, so chi è, so chi è. So chi è. Conosco anche i suoi tempi, sono scadenti. No, non ci faccia. No, ma allora mi racconti bene come sono scadenti i tempi di Giuseppe Cruciani? Ma insomma, sono alti, insomma, per l'età che ha, insomma, io. Perché lei lo straccia volendo? Insomma, straccio, ma faccio tempi migliori. Ma niente, dobbiamo invitare Giuseppe. Senta, un giorno a Cuore Denari. Comunque io faccio anche altri sport, faccio alpinismo, faccio sci, faccio un po' di tutto. Vabbè, però no, il caffè lo prende nel posto sbagliato, Prego? Però il caffè lo prende nel posto sbagliato. Ma quando c'è qualcuna che mi dice mi offri il caffè. Perché anche un gentiluomo ha detto, qualcuno hai capito, eccolo là. Carlo, buon anno, grazie, a presto. Buongiorno a lei. Allora, Massimiliano dalla provincia di Ancona, sì, che l'abbiamo ripescato? No, era Sergio prima, perché tu non sai, ma gli anconetani all'ascolto. Ma quanti sono? Tanti. Buongiorno, Massimiliano, pure lei. Sì, io adesso abito a Osimo, ma prima abitavo ad Ancona. Ma lei non è di Ancona, però. È Osimano, praticamente sta ad un passo da me. Perché sa che... Mio papà è Rosimano. Buongiorno Massimiliano, ci racconti? Il cugino di Deborah all'ascolto. Alla nostra insaputa, come Scaiola che aveva le case senza saperlo. Massimiliano, ci dica. No, io mi tengo in forma utilizzando un altro sistema, i miei cani. Io ho 2 alani, che porto fuori almeno 3 volte al giorno, sì, con una passeggiata di un quarto d'ora l'uno. Per cui cammino con loro almeno... tutti i giorni, in più la domenica se ho tempo gli faccio una bella passeggiata. Certo. E non è l'unico ascoltatore che tra l'altro ci sta segnalando proprio questa nuova modalità per fare movimento, no? Accompagnare il proprio animale, credo che lo faccia anche tu il mattino e certo, la sera. Certo, certo. Io con la Emma, accompagna me, perché gli alani sono impegnativi, mi sa Massimiliano, eh? La mattina diciamo che io sono un po' più assonnato e lui che guida, poi sì, dopo il pomeriggio e la sera sono guido, ecco, io. Quindi prendono Massimiliano, lei va a passo di cane, come dico io, no? Sì, esatto, esatto. Bravo. E siamo solo noi che viviamo con un peloso a quattro zampe che possiamo capire cosa significa andare a passo di cane, no? Perché comunque è molto allenante. Massimiliano, grazie, mi mandi le foto dei suoi alani, io le mando la foto della mia Immona. Ok, lo manderò su Facebook. Ok, ci vediamo su Facebook. Grazie Massimiliano. Grazie, grazie. Arrivederci. Molto. C'è, arrivederci. Ciao. Buon anno anche a lei. Allora, c'è un ascoltatore che ci contesta. Allora, sì, esatto. Di dove era lui? Era stato abitato ad Osimo. Che è un paese attaccato al mio, paese dove è nato mio papà. E adesso invece sta adesso sta ad Osimo, ma è stato ad Ancona, scusa il contrario. Ad Osimo. Senti, c'è parente che qua ha un po' in fibrillazione perché chiede di rispondere a degli ascoltatori che ci contestano su Twitter. Devo dire che Giovanni parente, anch'io volevo affrontare con te un po' la questione che ci stanno segnalando alcuni ascoltatori che dicono: ma perché vi lamentate del costo del caffè? In Europa costa di più. Noi non ci lamentiamo del costo di per sé, ma delle modalità con cui arrivano questi aumenti, così un po' di nascosto, furbescamente, devono partire dal 1 gennaio e partono 4 giorni prima, un po' questo è il tema, no? E quando non sono giustificati. Giovanni Giuseppe, io non si sto chiamando Giuseppe stamattina, sono ubriaca. Giovanni parente. No, ma assolutamente sì, no. Quello che vogliamo precisare è che noi non ce l'abbiamo contro i baristi, assolutamente. Stiamo semplicemente spiegando che c'è un aumento che scatterà dal 1 gennaio, che riguarderà i distributori automatici, spieghiamolo, e che in qualche modo però quando c'è un aumento che è dovuto a un rincaro fiscale, c'è qualcuno che in qualche modo può anticiparlo, approfittarne per fare un sovraccarico, ma questo non vuol dire che ci siano tutta la categoria di baristi o di chi opera nella distribuzione automatica sia scorretta, assolutamente. Quindi ci sono dei casi in cui qualcuno è scorretto, ma non generalizziamo e non stavamo affatto generalizzando. Ottimo. Assolutamente, sì. Abbiamo fatto questa precisazione. No, per non parlare poi di chi già si sta scatenando a chiederci dove verrà applicata questa tassa sulle isole minori, com'è che aspetta Giovanni che la ripesco, perché è proprio una last minute nel mille proroghe, la tassa di sbarco per le isole minori. Qua c'è, cioè già, cioè l'abbiamo appresa 2 secondi fa, figuriamoci se possiamo sapere dove, come, in che modalità verrà applicata. Tra l'altro Truzzi, voglio commentarla con lei questo blitz dell'ultimo minuto. Ma mi sembra... Non ne capisco le ragioni se non per un raspare il fondo del barile, ma io sono soprattutto preoccupato, oltre che per il turismo, che è un fenomeno da favorire, non da contrastare, perché nelle isole minori penso che si possa anche inserire Ischia, Procida, noi abbiamo una bella sezione di infatti Fabrizio da Biella, presidente Truzzi, ci chiede se sono quindi previsti anche rincari per Murano, Burano, Torcello, appunto, Lido, diciamo, Giudecca. Sono molto preoccupato, oltre che per i turisti, per i pendolari, insomma, che ogni giorno prendono il ferribotto, comunque l'imbarcazione, per fare terra a terra, ecco. E quindi la metteremo subito sotto la nostra attenzione, anche perché, come ricordava, il decreto è appunto un decreto e quindi deve essere convertito. E la cosa puzza un po' di bruciato e quindi innalzeremo subito le nostre antenne, perché non è mica bella questa cosa, anzi. E invece c'è un'altra situazione, presidente Truzzi, poi la salutiamo perché anche Truzzi lo stiamo trattenendo tra i mille impegni della fine dell'anno. Deve andare a ballare. Esatto. Ballerà domani? Scusi. Io domani faccio due cose, oltre che ballare vado anche sulle ciaspole. A cui abbiamo già dedicato una grande trasmissione. Mi dispiace, presidente, lei non ci inviti, perché noi l'invito ce l'abbiamo già, quindi se voleva invitarci ti risparmi. Ma cercheremo un altro weekend per andare col presidente Truzzi, non possiamo. No, le volevo chiedere un altro commento su un'altra pratica assai discutibile alla quale assistiamo ogni anno nel periodo delle vacanze, vuoi che siano quelle di Pasqua, sono quelle dei ponti, Natale capita la stessa cosa, insomma, quando c'è quello scattino del prezzo della benzina che si verifica in concomitanza con le grandi partenze. Ma che vogliamo fare con questa situazione perenne, ricorrente, presidente? Diciamo che vogliamo fare finché non riusciremo a entrare, insomma, in quella bella cultura pragmatica americana, per cui per una settimana i distributori rimarranno vuoti per dare un segnale forte di assoluto contrasto, e dovremo subire amaramente, mugugnare, lamentarci, ma subire una pratica che è fortemente lesiva e molto scorretta, perché purtroppo sono prezzi, per così dire, liberi, anche se amministrati, e di conseguenza non ci può essere il decreto che li blocca prima delle feste. C'è solo da sperare nella concorrenza, nelle pompe bianche. Dobbiamo trovare chi invece, io qualcuno l'ho trovato, devo dire, soprattutto nelle zone tra il Pavese, il Milanese, così, insomma, ci sono delle pompe bianche che non rincarano, ma sono poche, ecco, quindi diciamo che su questo ci sarebbe da aprire tutto. Esatto, e poi, come lei sa, Presidente, bisogna anche magari intercettarle lungo la strada che facciamo solitamente, perché se ci dobbiamo spostare e fare 5 km per fare un pieno conveniente, perché di solito questi distributori... E difatti sono tutte situazioni di piccolo monopolio, perché per quanto uno possa fare il click benzina una volta a cera, certamente non è che si fa 15 km per andare a rifornire. Questo è una pratica riservata purtroppo a quelli che hanno il metano, che ancora sono pochissime, esatto, i rifornimenti a metano, e quindi, come dire, qui ci sarebbe da dire molto, e diremo molto nel 2014, Presidente, perché la chiameremo molto spesso. Per ora la ringraziamo molto per essere stato con noi. Tanti auguri a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Di Radio 24, e che, insomma, che ci sia un buon anno anche. Mi si consente una battuta velocissima: noi abbiamo fatto il congresso con l'idea di consumare meno, meglio tutti. È ovvio che c'è chi consuma meno e si toglie il necessario, ma come ricordavano anche i vostri medici, a volte stare più attenti nei consumi per consumare tutti è una, esatto, è una e bella poi idea. E possiamo fare anche il nostro dovere di consumatori. Se tutti questi aumenti che ci stanno arrivando a raffica, almeno quelli che possiamo scegliere comunque di sopportare e di subire, cerchiamo in qualche maniera di comportarci adeguatamente, nel senso che se una cosa non digeriamo come aumento, non consumiamo più quel prodotto, si può scegliere in molti casi, no? Assolutamente. In tanti casi no, quello, però in tanti merendine, sì. Quello delle merendine, l'avevate ricordato, ecco, voi, esatto. è già un consumare meno che ci dona la salute. Benissimo, grazie Presidente Truzzi, buon anno, a presto. Buon anno, buon anno. Ballo e anche buone ciaspole, hai sentito che va sulle ciaspole? Esattamente, però noi oggi avventuriamoci in un'altra avventura. E salutiamo Chiara Campostrini, che è istruttrice della Scuola Italiana di Nordic Walking. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah e buongiorno a tutti gli buongiorno. Ascoltatori di Cuore Denari. Grazie. Carina, che carina, sì. Allora, perché noi vogliamo, a grande richiesta, perché gli ascoltatori di Cuore Denari sono pazzi per il Nordic Walking, vogliamo pensare di lanciare questa attività per il nuovo anno, o almeno iniziarla in queste poche vacanze di Natale che ci rimangono. Iniziare il nuovo anno con le racchette. È possibile? È alla portata di tutti, Chiara? È possibile ed è alla portata di tutti, perché il Nordic Walking è proprio uno sport che fa bene a cuore, circolazione, rafforza braccia, spalle, migliora la postura della schiena, è assolutamente praticabile da tutti e si può praticare ovunque. Questo è proprio uno dei punti di forza del Nordic Walking, quindi non solo magari su sentieri di montagna, come il nome può magari richiamare, ma va benissimo anche sulla spiaggia o nei parchi cittadini, nei viali, quindi praticabile da tutti e praticabile ovunque. Perché ci sono praticamente, a fare la differenza sono queste racchettine, questi bastoncini. Sì, esattamente, diciamo che il bastoncino è proprio l'elemento che caratterizza il Nordic Walking. Dato che il Nordic Walking è una camminata naturale alla quale viene abbinata una spinta delle braccia, quindi spinta delle braccia che si ha grazie all'utilizzo funzionale appunto di questo apposito bastoncino, e qui risiede un po' il segreto del Nordic Walking, visto che in una normale camminata di 10 minuti facciamo 1000 passi generalmente, quindi in un'ora possiamo contare 6000 passi. Grazie al Nordic Walking e all'utilizzo funzionale del nostro bastoncino faremo oltre ai 1000 passi, faremo anche 1000 spinte in 10 minuti, e in un'oretta faremo 1000 passi, 6000 passi e 6000 spinte. Ma per imparare a fare queste spinte si deve fare un corso, si basta guardare un video, ce lo spieghi allora, tu dalla radio? Allora, ci sono libri, ma la cosa migliore, come in ogni disciplina sportiva, almeno all'inizio, è quella di affidarsi a un bravo istruttore che possa insegnare la tecnica corretta in modo tale da poter poi sfruttare il movimento nel modo più efficace ed efficiente possibile. Senti, ma quanto tempo ci vuole a imparare una camminata con i bastoncini corretta, per fare le spinte giuste, insomma? Per fare la spinta giusta, diciamo che magari un normale corso si può articolare in 5-6 lezioni di un'ora e mezza ciascuna. Ecco, io l'unica difficoltà che mi sembra un po' è gestire questi bastoncini in città. Poi, ad esempio, per chi come me di solito passeggia con il cane, diventa ancora più complicato. Chiara, ci sono dei bastoncini cittadini, metropolitani? Ci sono dei bastoncini, diciamo che i bastoncini sono di diversi tipi, ce ne possono essere ad asta fissa, ma magari per chi li può utilizzare in città, magari ha la necessità anche di spostarsi con i mezzi pubblici, ci sono anche dei bastoncini pratici, sono dei bastoncini telescopici, richiudibili in 2-3 pezzi che possono essere tranquillamente riposti magari in borsa o nello zaino, e poi magari possono essere sfruttati in pausa pranzo per fare una camminatina nel parco vicino, oppure anche, perché no, per rientrare dal lavoro camminando a passo di Nordic. Vedi? Infatti. Dai, allora, prossimo anno, allora, prossimo anno Nordic, io e te. Ma molto volentieri, perché sai che non mi spaventa nulla, ma sentiamo anche se qualche ascoltatore si è già cimentato in questa pratica sportiva, che comunque, non so, Chiara Campostrini, è nuova, da quanto se ne parla un po' nel nostro paese? Allora, questa, diciamo che questa attività arriva da lontano, sia nel tempo che nello spazio, perché come dice il nome stesso, Nordic Walking, camminata nordica, diciamo il primi posto dove è comparso è stata la penisola scandinava, dove fino negli anni 30 i migliori atleti che praticavano gli sci di fondo si allenavano in estate e in autunno con l'utilizzo dei bastoncini da nord. Ecco, colazione a base di acciughe, ringhe e poi esatto, subito una bella passeggiatona. E Chiara, e guarda un po' che bei pezzettoni di ragazzi sono diventati, anche le ragazze, quindi... Esatto. E quindi insomma è molto salutare. E Chiara è istruttrice, non a caso, poteva scegliere tante cose, ha detto io scelgo di diventare istruttrice. Ma no, di facciamo Nordic qualcosa Walking di nuovo, giustamente, Chiara, no, perché sennò abbiamo sempre le solite palestre, le solite sciate, esatto, le solite ciaspole, e invece adesso facciamo e qualcosa. Quindi, esatto, anche in un periodo diciamo di crisi, dove effettivamente si fa attenzione a tutto, il Nordic Walking si sta rivelando vincente, proprio perché come attrezzatura basta un normalissimo abbigliamento da jogging, un paio di buone scarpe da ginnastica e i famosi bastoncini, e poi la palestra è il cielo aperto, quindi niente di più economico e salutare. Molto bene. Grazie, buon anno a Chiara Campostrini. Buon anno a voi. Grazie, buon Nordic Chiara. Walking. Buon allenamento. A voi. Speriamo, auguriamo a tutti un 2014 in cammino. In cammino. Grazie, Chiara. E noi incamminiamoci per Pordenone, perché Pordenone, abbiamo Fabio. Esatto, perché insomma prima ho sollecitato un po' i nostri ascoltatori a fare anche il nostro dovere di consumatori. Il mercato può fare la sua parte, se qualcosa non ci piace possiamo sicuramente scegliere, soprattutto se qualcosa non è alla nostra portata economica, noi a fare delle scelte, lo abbiamo fatto molto quest'anno, lo faremo anche di più nel 2014, nuovo anno di sacrifici. Fabio, lei che farà? Che farò? È difficile da dire. Lo spendere di uno in famiglia. Ecco. Ho già cominciato prima volevo intervenire sul discorso del caffè, esatto. Io ho sentito che si partiva in gennaio, mentre la situazione in cui mi sono trovato io in azienda e nei distributori automatici, che l'aumento è partito già dal 1° di dicembre. Eccolo là. Ma quello che mi ha fatto arrabbiare è che giustificando l'aumento dell'IVA del 4-10%, tutto è stato portato a una misura superiore, perché oltre al caffè che è passato dai 40 ai 45 centesimi, quindi una misura superiore, il pacchetto di crackers da 20 a 25, e siamo al 25% in più. Mm-hmm. E lei ha smesso di consumare, Fabio? Io ho deciso di restituire la chiavetta. Ale, proprio anche un gesto simbolico, la restituzione della chiave. Simbolico. Fabio, chissà che non lo dobbiamo fare anche io e Nicoletta. Adesso purtroppo devo salutarla molto velocemente perché il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma la recupereremo sicuramente l'anno prossimo con altre testimonianze, lei e tanti altri ascoltatori. Però ci siamo anche domani noi. Noi ci siamo anche domani, per vi aspettiamo. Per brindare con i nostri ascoltatori. Salutiamo Giovanni Parente. Giovanni? No, grazie, ciao, ciao, ciao, Giovanni, anche a te, Giovanni. Ti porto a ballare, Giovanni. Anno nuovo, ballo nuovo. Eccolo là. A domani, ragazzi. Buona giornata a tutti.